clinica ridente. Ok, allora una strategia sorpresa, qualcosa di delirante che poi si ribalta e sorprendiamo l'ascoltatore. Tipo, invece del dolore, il piacere. Invece delle lacrime, il riso. Sorriso, felicità, felicità per le spese contenute. Adesso che abbiamo la vostra attenzione, possiamo dimostrarvi la serietà e l'impegno della clinica dentistica Ridente per la più alta qualità delle vostre cure e per mantenere la vostra spesa accessibile. Perché ognuno di voi possa sorridere serenamente. Dentisticaridente.com. Dentisticaridente.com.